noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E finisce qui. La serata più triste del nostro calcio. La serata più triste del calcio italiano. Oggi ho parlato con Ventura e gli ho comunicato che non abbiamo più necessità delle sue, della sua collaborazione, dei suoi servizi, quindi da oggi non è più l'allenatore della nazionale italiana gioco calcio. Ventura doveva lasciare, avrei preferito che avesse dato lui le dimissioni. Da vecchio non è mai entrato dentro i problemi tecnici della squadra, è una persona eletta democraticamente alla guida della federazione, ha operato molto bene in tanti settori, quindi lasciamo a lui di decidere cosa intende fare. Già ho imparato cosa significa il derby per questa città, il derby per queste squadre, per i tifosi. E sarà una grandissima partita. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess. Sicuramente la Juventus è quella da battere. Noi gli siamo vicino, a vogliamo finalmente vincere questo scudetto. Show must go on, yes. Finalmente possiamo tornare a litigare di fuori gioco, va, no, calci di rigore, se Dio basta, vuole. Basta con queste robe politichese. Giovanni, siamo anche arrivati. Berlusconi ha parlato, sì. Sentito. Abbiamo sentito Berlusconi, abbiamo sentito Tatavecchi, abbiamo sentito Manca un riassu- Mattarella. Anche no. Potrebbe. Gentiloni, no. Qualcosina. Anche no. Siamo arrivati, se Dio vuole, alla fine della settimana più difficile dell'epoca recente, più lunga, dura e difficile dell'epoca recente. E sempre e adesso svoltiamo, potendo, da domani alle 18 svoltiamo e poi fa il bravo che dopo la schedina. Fa il bravo che dopo la schedina, che Pardo si è preparato, ha studiato tutta la settimana. No, zero. Si è nascosto dietro la nazionale per poi preparare in realtà la schedina. No, ma io ormai, sai, ho la non la fare il figo, non fare il figo. 5-4, sei. Ho la serenità di quello che è davanti, per cui non ho caricato la vigilia. Va bene, serenità, allora facciamo così, sì. facciamo così, adesso vi tiro un tranellone e sì. Vi faccio fare il pronostico del derby in anticipo. Sai cosa ti dico? Ma chi deve cominciare però? Tu, sei in vantaggio, 5-4, sei in vantaggio, quindi cominci tu. Uno fisso. Abbiamo già sparigliato, ragazzi. Dopo il resto. Hai segnato Claudia Scattone, che oggi è autore di questa puntata. Napoli-Milan la dice lui. No, aspetta, aspetta. Sì. No, okay. Perché? Dopo. Adesso, fate i bravi. Dopo. Dopo facciamo tutta la schedina. Intanto siamo partiti dal derby, che tra l'altro è la partitissima che apre questa giornata. Dunque Pardo dice X, l'avrei detto anch'io. Giovanni dice 1. Non capisco perché, ma comunque ci adeguiamo. Allora, facciamo il punto della situazione dopo questa impossibile, surreale settimana. Tavecchio resta al suo posto, Ventura ovviamente viene dimissionato, Berlusconi non ha torto quando dice avrei preferito vedere dimissioni spontanee, eccetera, eccetera, però siamo alla battaglia del grano, siamo alla, così, alle quisquiglie dopo una settimana che ci ha sbattuti fuori dal mondiale. Ancelotti chissà se arriverà. Potrebbe anche arrivare, adesso non vediamo sinceramente l'ora di girare pagina e guardare alla giornata di campionato, che comunque ci propone diversi temi interessanti e diverse partite difficili in schedina, ragazzi. Dunque, che succede, Capuano? Ma no, succede che adesso congeliamo per 72 ore tutte le vicende legate alla figuraccia che abbiamo fatto con la Svezia. Poi lunedì si ricomincia. Ancora? Eh sì, perché lunedì Tavecchio presenta al Consiglio federale il suo programma, qualcuno magari uscirà di nuovo, e qualcuno starà dentro e cercheremo di capire che cosa si muove, perché insomma quello che ci è parso di intuire è che alla fine oggi quello che è in grado in 72 ore di presentare un piano è Tavecchio. Sì. Gli altri di alternative ancora non ne hanno fornite, noi aspettiamo pazientemente di capire, perché poi insomma la politica è fatta di mille sfumature e io credo che quello che ha detto ieri Berlusconi vada unito insieme, perché ha avuto grande, giustamente, grande seguito chiunque abbia parlato contro Tavecchio in queste ore, però secondo me fa rumore parecchio anche chi è stato in silenzio. Io ti dico, ieri ne abbiamo parlato con Pierluigi, abbiamo parlato con Alberto Brandi, la mia posizione non è così distante da quella di Alberto Brandi, perché insomma De Panza, come si suole ragionare in questo momento, tutti avrebbero voluto vedere le dimissioni di Tavecchio insieme a quelle di Ventura. Di fatto, e Pier, ne abbiamo parlato anche con Andrea Schianchi, si diceva adesso presentiamo un progetto, stiamo aspettando a braccia aperte, però questo progetto chi lo deve presentare? Poi siamo in una situazione emergenziale in cui noi italiani siamo bravissimi, però se si dimette Tavecchio che succede? Tavecchio sconta un peccato originale che è legato alla, direi, alla sua persona e alla sua difficoltà, secondo me, di comunicazione e a ciò che rappresenta. Perché non c'è dubbio che in qualsiasi, che in un mondo sano una decisione su una presidenza federale di qualsiasi disciplina, così come faccio per dirti sulla presidenza di quei club tipo il Barcellona e il Real Madrid, dove comunque c'è una valutazione, dove ci sono le elezioni, i soci, vede l'elemento tecnico come un elemento importantissimo ma non decisivo, nel senso che non è che è Tavecchio che mette in campo i giocatori, al massimo Tavecchio può aver sbagliato la scelta. E qui però io vi invito, tanto ormai su internet si conserva tutto, andare a riprendere quello che tutti, anche noi, abbiamo scritto 2 anni fa. Cioè noi di Ventura non abbiamo scritto male, io non ho parlato male di Ventura 2 anni fa. Nessuno è un pirla, Pierluigi. Dopo l'Europa hanno detto, abbiamo detto grande scelta Conte. Qua, se ti ricordi, nei giorni della scelta di Conte, tutti dicevamo, tutti in tanti dicevano, ha speso troppo per prendere Conte. Noi tre, quell'estate lì, che anno era? 2014. Abbiamo detto scelta sacrosanta, perfetto. Rimane tutto. No, noi siamo stati fra i primi quando certo. Ci fu questa cosa a dire perché no. E guardate, questa cosa qui è oggettiva. Adesso facciamo per un minuto, contiamo il petto. Su Ventura, io mai pensavo che l'Italia sarebbe andata fuori dal mondiale. Lo dico, ho sbagliato. Fuori dal mondiale. Però mi pare che abbiamo sbagliato in tanti. Cioè, non mi pare che nell'estate di 2 anni fa ci siano stati articoli di giornale contro Ventura, che brutta scelta, mondiale in pericolo, cose del genere. È evidente che Tavecchio avrebbe voluto conservare Conte, lo sappiamo. Conte ha fatto un'altra scelta professionale. Poi ha scelto un allenatore di fascia media. Ventura era e rimane un allenatore di fascia media. Certo. Questo è. Mi posso lanciare un tema, Pier? Non ci ha capito niente negli ultimi 3 mesi. È giusto che si diventa Tavecchio? Forse sì. Io gli consiglio di fare un passo indietro. Cioè, io fossi in lui sarei andato e avrei detto: io sono di fronte a un apocalisse, l'ho detto io. Uh-huh. E quindi mi dimetto. No, ma certo, su questo non c'è dubbio. Fammi finire un secondo, lo so che sono prolisso, però no, questo dimmi. È il mio mandato, è vostro, è del mondo del calcio italiano. Trovate uno migliore di me. Nel dire questo, però, rivendico di aver fatto questo, nel bene e nel male. Si apre un dibattito su quella che è stata la mia gestione. Questo, secondo me, quello che fa passare Tavecchio dalla parte del torto, invece, è questo rimanere abbarbicato alla poltrona, certo, che viene percepito come non volersene andare. Ma in assoluto, che un presidente di una federazione di calcio non debba essere valutato soltanto per la nazionale, questo secondo me è sacrosanto. È quello che abbiamo detto ieri. Perché se il palo di Darmian fosse andato 3 centimetri più a sinistra, che facevamo? Andava tutto bene? Perché eravamo al mondiale? Tavecchio era un fenomeno? No, Tavecchio non era un fenomeno se noi ci fossimo qualificati con la Svezia. Non era un fenomeno. No. E così merita di essere valutato a 360 gradi. Però è chiaro che non aver fatto questo passo indietro lo indebolisce molto, perché comunque ogni giorno che passa in più sembra il classico politico italiano che rimane a controllare le viti, a controllare il filetto delle viti che lo tengono sulla poltrona. Questo è chiaro. Poi c'è Marco dalla provincia di Caserta e stanno arrivando anche tanti messaggi. Io però voglio lanciare un tema anche, poi so che abbiamo Massimo Mauro che si getterà nella mischia senza timore e senza remore. Senza problemi. Oggi gira la voce che settimana prossima, quindi se lunedì il Consiglio federale dovesse andare come tutti pensiamo, i calciatori sarebbero pronti a fare un minuto di sit-in in protesta contro Tavecchio. Se vi posso dire la mia, è una pagliacciata. Sì, sono d'accordo, sarebbe abbastanza una pagliacciata, anche se ricordiamo la posizione di Tommasi che è uscito in anticipo da quella, non era un Consiglio federale, ma era una riunione dello Stato Maggiore del Calcio Italiano, quindi la posizione è questa. Poi ci spiegassero anche perché e per come, sarebbe pure meglio. Marco, buongiorno. Oh, allora, io appoggio abbastanza la tesi, l'ultima tesi per Luigi Pardo. Allora, in più aggiungo una cosa. Diciamo che l'operato di Tavecchio fino a questo punto è stato abbastanza buono, perché quando ho capito lui è un ragioniere che ha messo a posto un po' di cose all'interno della federazione, però non essersi qualificato ai mondiali è una cosa talmente grave che quasi appanna tutto quello che di buono ha fatto fino a quel momento. E le sue responsabilità quali sarebbero? Sarebbero che lui in capo a una federazione non solo ha sbagliato la scelta dell'allenatore, perché è vero che 2 anni fa tutti quanti più o meno eravamo più o meno d'accordo, sai. Però, beh, più o meno d'accordo fallisci, su Ventura. Però quando poi fallisci, chi è il capo della federazione? Chi è che ha scelto lo tuo? lo so Marco, però allora, quindi avendolo scelto lui ora lui ne paga anche le conseguenze, il signor Tavecchio. C'è un discorso, questo è corretto. Ma questo... chi potevamo prendere? Capuano c'è una lista. Chi so tu? No, in tanti si sono sfilati di quelli del livello superiore. Chi potevamo prendere noi quell'anno? Potevamo prendere De Biasi e Zaccheroni, perché tanti altri, da Mancini a Capello, insomma, diciamo, per vari motivi erano poco disponibili, per usare un eufemismo. E questo è il tema. Però secondo me è anche inutile tornare lì. Il fatto è che non si deve perdere il tempo adesso, per cui vogliamo mandare via Tavecchio, lo mandiamo via domani mattina, non c'è problema. Bene, okay. Però oggi leggo tra le ricette, ti faccio un esempio, per guarire il calcio, Gazzetta dello Sport, uno dei 10 punti, cioè legge Melandri sui diritti TV, adesso fare una riforma che dà più soldi a chi merita. Stiamo andando esattamente al contrario, cioè dividerli allora, a pioggia su tutti. Allora, ragazzi, e nessuno l'ha detto fino all'altro ieri. È un po' ragazzi, come la storia di Ventura, che ragazzi, andava bene a tutti. Ragazzi, un attimo. Innanzitutto ricapitoliamo a beneficio degli italiani la situazione legale allo stato dell'arte. Se la Federcalcio non è commissariabile perché non ci sono i presupposti giuridici, se Tavecchio si fosse dimesso, allora sarebbe stata commissariabile. A quel punto Sibilia, vicepresidente vicario, avrebbe assunto il mandato per l'ordinaria amministrazione, avrebbe dovuto indire entro 90 giorni nuove elezioni. Ora, siamo pronti per questo tipo di scenario in una situazione emergenziale? Secondo me è meglio lasciar stare la pancia e sbollire così il fumo e poi capire in che direzione si vuole andare. Traffico. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Anche se classica dice qualcos'altro, Milan è sempre una squadra fortissima che ti metterà in difficoltà, ci metterà anche in difficoltà anche a noi. Noi dobbiamo essere pronti e reagire e giocare il nostro calcio, quello che stiamo facendo vedere da inizio di campionato. Vincenzo è un allenatore che abbiamo scelto, abbiamo visto, abbiamo seguito da fuori nei mesi lunghi che hanno preceduto il closing. Poi Mirabelli è stato fisicamente con lui aprile, maggio, per cui ha potuto verificare da vicino come lavora sul campo, che rapporto ha con i ragazzi. È una nostra scelta, ha la nostra fiducia, siamo vicini a lui, sappiamo che non tutte le cose arrivano con uno schiocco di dita, ma siamo convinti che arriveranno. Vabbè, abbiamo sentito Amsi che fassone perché non vediamo l'ora di tuffarci nel campionato, però abbiamo Massimo Mauro che è uno che normalmente non fa prigionieri, non solo come giocatore, ciao Max, ciao, non solo come giocatore perché ha giocato con 3 geni, per ricordare il titolo del libro, ma perché non ha peli sulla lingua. E allora... Però mi fai ascoltare sempre il traffico, Massimo, guarda, è la parte migliore della trasmissione, allora, perdonami. Max, allora, sai cosa sto facendo in questo momento? Sto mandando l'ennesimo messaggio al mio caporedattore per dibattere su questa. Vabbè, dai, adesso queste cose private. Private, guarda, giuro, te lo giuro, sto facendo questo. Ok, perché vuoi parlare di Milan-Napoli? No, se vuoi parliamo dell'apero cormano come Leo Turrini. Io vorrei parlare di nazionale, Mauro. Vogliamo sapere se Tavecchio secondo te deve andarsene o no. Sì o no, come un grandissimo referendum. Penso di essere stato il primo, sto dopo la partita, no? No, ma adesso a prescindere da questo, ma dai, quando succede una cosa così, degli uomini che si possono definire tali non possono che mettere a disposizione il proprio mandato, dai. Io ti posso dire che vorrei ringraziare per le parole dette, per il tentativo fatto, due uomini di potere con cui io non ho mai un buonissimo rapporto con gli uomini di potere, ma Malagò e Lotti veramente sono da ringraziare, perché hanno fatto capire, no, che se dovesse capitare un disastro si dimetterebbero anche loro. Lotti forse un po' di disastri li ha vissuti, Malagò no, Malagò merita di fare il presidente del Cosa. Non è che lo sport italiano in assoluto attraversi il suo momento migliore, adesso però, uscendo dal calcio. Vedi, però io non dico che un presidente si deve dimettere se la nazionale perde una partita. Un presidente si deve dimettere per le scelte che ha fatto. Cioè, questo è il punto. Io non credo che Abete fece bene a dimettersi dopo la sconfitta in Brasile, no? Dopo l'eliminazione in Brasile. Perché un presidente non è responsabile se Immobile o Belotti tirano fuori, o se il cross non arriva mai. Non c'entra niente il presidente. Il presidente c'entra perché c'è un movimento che ha fallito completamente, non solo la qualificazione ai mondiali. Questo sì, è il punto. Perché un presidente che è un commercialista, un avvocato, un ingegnere, non so che mestiere fatta vecchio, ha scelto un allenatore di calcio. Si è fatto consigliare da Lippi, si è fatto consigliare da Sacchi, non lo so. Però ha scelto lui, se ne è assunto lui la responsabilità. Qui sta il problema, a mio avviso. No, Massimo, sono d'accordo. È tutto corretto, però in questo momento... Tavecchio si dimette, che succede? Cosa facciamo? Perché non è come si dice. Si va alle elezioni. In questo momento. Ma dove sta il problema? In tre mesi. Finalmente sono d'accordo con Tommasi. Nella prima volta nella storia della serie che io sono d'accordo con Tommasi. Quindi, se tu avessi ancora una carriera da calciatore, sabato e domenica prossima, se davvero c'è questo scenario, faresti questo sit-in di un minuto? Pagliacciata. Contro Tavecchio? No, sono d'accordo per il fatto che bisognava andare alle elezioni, no, assolutamente, che i calciatori sciopero, facciano i sit-in, è una vergogna a prescindere, no, non è questo il punto. Il punto è che ci vuole un ricambio, e speriamo anche generazionale, e speriamo che un grande ex campione si occupi soltanto della questione sportiva, e un grande manager si occupi di sviluppare la politica del calcio giovanile e degli interessi della nazionale, che non possono essere contrastanti al 100% con gli interessi dei club. Bene, allora facciamo così, mettiamo in difficoltà Pardo, ragazzi. Fai due nomi. No, ma io faccio... Pardo, voglio sentire due nomi. Volevo solo ricordare sommessamente che il presidente federale, premesso che non si vive solo di soldi, per carità, nella vita, e questo è oggettivo, ma è una carica credo da 30.000 euro lordi l'anno. 36.000 euro lordi l'anno. No, voglio dire che è difficile pensare a un grande manager che ha tempo pieno. Io dico un'altra cosa. Io dico, allora, il presidente federale, se vogliamo chiamarlo così, può essere, adesso tutti dicono Maldini, ma Maldini dovrebbe dimostrare in qualche maniera di avere capacità manageriale. Diciamo che per la competenza calcistica non c'è dubbio che potrebbe stare accanto ad Ancelotti e gestire la nazionale dei calciatori, dico, no? Poi il manager è un'altra cosa, Pier. Il manager è una persona che presenta un progetto di sviluppo, quello che è successo in Germania, quello che è successo in Spagna, quello che è successo in Inghilterra. Questo è il punto. Cioè, i centri federali non possono essere 5 indirizzi dove ci sono 3 ore al giorno di lezioni calcistiche. Non può essere questo. Ma non può essere così. Secondo me sono una delle cose che funziona meno. Su altre cose, la riforma dei campionati. Un attimo, Massimo, fammi sentire Pardo, così almeno continuiamo il dibattito. Il mio giudizio tutto vecchio è un giudizio laico, nel senso che a me lui non piace perché è partito malissimo. Non è chiaramente la persona, dal punto di vista della comunicazione, più adatta, anzi è una delle meno adatte sicuramente, però la gestione di Tavecchio secondo me nelle parti politiche è a luci ed ombre. Le luci te le dico in 15 secondi: ha beccato tutte le scelte politiche UEFA, FIFA, e questo gli deve essere riconosciuto. Sul VAR comunque siamo fra gli apripista, in un paese di complottisti come siamo noi, e questo secondo me è un altro elemento oggettivo. Sulla riforma dei campionati mi risulta che lui sia favorevole, che sono semmai le società che si oppongono a questo tipo di cosa. Anche Tommasi, perdonami, anche Tommasi è contrario. Altre cose meno buone sicuramente i centri federali. Cioè io do un giudizio medio della gestione da vecchio, non è secondo me il male assoluto e non è il bene assoluto. Certamente si presenta male e ribadisco, una persona secondo me con un'altra capacità anche dialettica avrebbe fatto quello che secondo me bisognava fare in questo momento. Bisognava dimettersi dicendo io ho sbagliato la scelta di questo allenatore, non mi pare che 2 anni fa nessuno abbia manifestato in piazza contro Ventura, cioè tutti eravamo felici di accoglierlo, è andata male, rivendico questi risultati e mi ricandido. Questo è quello che avrei fatto io, però per farlo ci vuole ovviamente una capacità dialettica di comunicazione che probabilmente insomma Tavecchio non ha, questo è indiscutibile, perché è chiaro che ogni giorno in più che passa Tavecchio è sulla graticola come, certo, ripeto, come uno che sta lì che si difende, no? Massimo, sei d'accordo con Pardo oppure no? Sottoscrivo anche perché è vero, con la UEFA ha avuto un buonissimo rapporto, ha fatto le scelte giuste, no? Però si è assunto la responsabilità dell'allenatore. Io questo dico che non sopporto. Che un conto è un'azienda privata, Zamparini può prendere tutti gli allenatori che vuole e mandarli via, sì, 10 sì, all'anno, chiaro, benissimo, chiaro, è chiaro. La società fa quello che vuole, ma la federazione è di tutti noi. Un attimo. Per la scelta di Conte che facciamo? Gli diamo un bonus? No, un attimo. Conte l'aveva beccato. Un attimo, Pier, un attimo. Massimo, per chiudere, guardiamoci negli occhi metaforicamente, ok? Sì. Andare ad allenare la nazionale, l'ultima cosa che ti chiedo, però andare ad allenare la nazionale, da un punto di vista agonistico, calcistico, di carriera sul campo, è una sorta di... perdonatemi tutti, ma di tomba sulla tua carriera, cioè vai lì e non fai più l'allenatore, primo. Secondo, è anche un problema dal punto di vista economico, perché nessun allenatore che guadagna 7 milioni l'anno va ad allenare nazionale per 1,5. E quindi, che facciamo? Ma io ti posso dire un nome che per esempio a me, come selezionatore, come allenatore non mi fa impazzire, ma come selezionatore, secondo me andrebbe benissimo, è Claudio Ranieri. Per esempio, no, uno dice perché devo andare a prendere, poi gli metto accanto Paolo Maldini, io lo dico perché a me piacerebbe, però dico certo, anche no, che i calciatori non è che devono cullarsi sul fatto che sono stati dei grandissimi calciatori, esatto, devono esatto. pure mettersi un po' a studiare, un po' a sapere, esatto. un po' a conoscere, no? Ma Paolo Maldini mi sembra che non ha detto mai scontate nella sua vita, è un ragazzo straordinario che è stato un campione, quindi secondo me lo potrebbe fare. Ma questo no. Allora gli metti accanto una situazione di questo tipo all'allenatore e non devi prendere per forza, perché Ancelotti guadagna, beato lui, meritatissimi tutti quei soldi lì. Io sono d'accordo, la nazionale è una questione di cuore. Soprattutto prima che economica, e su questo non c'è dubbio, e poi di grande prestigio, che basta vedere le lacrime dei giocatori, tutto quello che dicono chiunque c'è stato, ed è chiaro che la nazionale è una questione straordinaria, te la devi vivere per capire bene che certo, cos'è. Una volta, ecco. 2 mesi ogni 2 anni però Max, parliamoci sì, chiaro. Però, secondo me, è una grande cosa. Certo, ma secondo me era più interessante anche alla luce di quello che ci ha detto Schianchi ieri, quello che diceva prima Massimo Mauro, con tutto rispetto per Ranieri, per carità, però io non ho la certezza, nessuno di noi credo possa avere la certezza che avremmo evitato questo disastro in un girone di qualificazione complicato, perché la Spagna comunque è più forte di noi e quindi è ovvio che saremmo arrivati ma certo che l'avremmo evitato, Pier, scusami, guarda, l'avremmo evitato perché... Come si fa a gestire quello che è successo alla squadra di Ventura in questo momento? Perciò dico, io penso che l'avremmo però 2 anni fa avremmo pensato che Ventura avrebbe fatto questo disastro? Che avrebbe fatto questa confusione che ha fatto in questi ultimi 4 mesi, sinceramente? Certo, Pier. Non lo pensavamo, dai. Anche ragazzi, perché era una speranza quella di non pensarlo, voglio dire, no? Di andare ai mondiali. Dai, era anche una legittima convinzione, non lo prendevamo nemmeno in considerazione, non la prendevamo in considerazione. Calcio italiano, ma era stato un allenatore che aveva dimostrato delle cose negli anni precedenti. Sì, Pier, però io ripeto, allora dobbiamo devo fare il vigile, perdonatemi, dobbiamo chiudere qui perché c'è la borsa. Io ringrazio Massimo Mauro, davvero. Grazie a voi, è sempre un grande piacere parlare con te, Massimo. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, il numero verde. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Hanno sia Immobile che Parolo hanno vissuto una grandissima delusione, però il calendario gli prospetta subito una grandissima partita che è il derby, quindi la loro rabbia agonistica che hanno accumulato, la delusione, avranno modo, speriamo che Immobile riesca ad essere in campo e tutte e due, insomma, domani potranno mettere in campo la rabbia accumulata in questi giorni. Mi auguro che per loro sia anche un motivo per potersi rifare di quella che è stata un po' la delusione della non qualificazione mondiale, e di mettere in campo tutta quella rabbia, quella cattiveria, quell'orgoglio che spesso, specialmente nei giocatori di Roma, li ha contraddistinti. Questi erano Inzaghi di Francesco alla domanda come giocano domani il derby di Roma, come sono tornati i nazionali dopo le sberle prese. Io, tanto per continuare a fare outing, sto dibattendo via WhatsApp con il mio maestro Marino Bartoletti, che mi scrive: no Carlo, sai che ti voglio bene, ma la nazionale non è stata una tomba né per Conte né per Donadoni né per Zoff nemmeno per Lippi, addirittura neanche per Fabbri, che pure aveva vissuto la Corea. Ho risposto: se io fossi un top coach, perché dovrei andare in nazionale? Il part time è secondo me la soluzione. Ma ha parlato l'ormai ex allenatore della nazionale. Allora, ha dettato una dichiarazione all'Ansa che così recita, due punti aperte virgolette: sono stati e sono giorni difficili e di profondo dispiacere. Provo una sensazione di incompiutezza dal momento in cui non ho raggiunto il traguardo dei mondiali. Guidare la nazionale mi ha trasmesso senso di appartenenza ed orgoglio mai provati prima, perché non ci può essere niente di più grande. Ho lavorato con tutto me stesso, con serietà e professionalità. Non sono riuscito là dove ero convinto di farcela, alla guida di un gruppo di ragazzi che non smetterò mai di ringraziare. Ho lavorato anche per preparare più giovani al grande salto che potevano e possono ancora fare, in modo da arricchire tutto il nostro movimento. E poi c'è il passaggio che chiude, ed è forse quello più importante. Nel calcio le vittorie sono sempre il prodotto del merito di tanti, e allo stesso tempo le sconfitte, soprattutto quelle più dolorose, non si possono spiegare con una sola verità. Nel momento dell'insuccesso bisogna dare risposta ad una lunga serie di interrogativi. Ora, nel momento della ripartenza, sarò il primo tifoso e al mio successore auguro di riportare l'Italia dove merita. Velina, pardo. Dice dividiamo le colpe. No, okay, giustamente, dividiamo le colpe. Poi spiegami perché il perché dell'ultima formazione. Spiegami se sei scazzato con Immobile o se con Insigne. Scusami se De Rossi non l'hai fatto giocare perché avevi litigato con lui. Cioè, ragazzi, diciamoci anche le cose, no? Tiro l'acqua al nostro mulino giornalistico, Ma certo, ma mica, voglio dire, adesso non è che siccome Ventura ha detto queste cose condivisibili, secondo me in assoluto, va bene. Carità, non è che cambia niente del giudizio tecnico sulla vicenda. Immagino che sia vero, che lui sia il primo a essere devastato, su questo non ho grandi dubbi, perché non dimentichiamoci mai tutte le volte che noi abbiamo la tendenza, quando non noi, ma in generale, quando i tifosi dicono ma sono i giocatori che non si impegnano, ma addirittura vogliono perdere, quando vengono fuori queste buffonate, di tanto sento dire, dovute alla grande passione dei tifosi, no? Che dicono com'è possibile. E poi in realtà i primi a soffrire sono i diretti interessati. Questo non c'è dubbio, quindi se l'avventura è devastato, non c'è dubbio. Ma certo, ciò non toglie che abbia sbagliato, praticamente tutto negli ultimi tre mesi. Quindi certo, ma allora ditemi perché, allora che Ventura mi spieghi, invece di dire queste cose che sono banali, scontate, se vogliamo, mi spieghi perché è stato fuori da quella porta, perché ha accettato di fare così, perché gli hanno dettato la formazione, venga a raccontarmi queste cose. Intanto io, c'è Marco da Siracusa, c'è Cesare Rabari che sono ascoltatori, ma c'è anche Fabrizio Roncone che io saluto. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Avremo una gran voglia di parlare del derby di domani, di quello che succederà, ma come sai siamo sempre avvitati su questi temi. Sì. Beh, no, mi veniva da pensare una cosa, ma questa cosa di Ventura, io insomma sì, sono d'accordo con il fatto che abbia sbagliato gli ultimi tre mesi, ma io credo che tutti quanti noi che abbiamo visto, che abbiamo seguito la nazionale, gli avremmo volentieri abbonato gli ultimi tre mesi, cogliendo forse, come dire, l'impreparazione, forse anche questo suo essere in un posto che probabilmente non avrebbe dovuto ricoprire. Cioè, noi avremmo avuto un'indulgenza nei suoi confronti se, finita la partita, Ventura avesse fatto quel gesto che tutti ci aspettavamo. Sì, è chiaro Fabrizio. Io dai. Penso che sia stato quello, sia quello il, come dire, la curva dove va a sbattere Ventura. Sì, cioè lui, ma finisce è la indubbio, Fabrizio. È indubbio, però finisce la partita, sei ormai in l'ex. Abbiamo anche, che ho detto Pier, ieri, abbiamo anche Paolo Genovese in linea. Ci sta ascoltando. Lo salutiamo, gli facciamo i complimenti per il film. Tra un po' scateniamo il derby. Grazie. Scateniamo il derby. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Paolo. Ciao. Dicevi Pier? No, dicevo una cosa al volo, che intanto per essere molto pragmatici, secondo me lui doveva avere già una via d'uscita. Cioè lui doveva, secondo me, parlare con Tavecchio prima della partita, stabilire una buona uscita. Sicuramente ci avrebbe rimesso dei soldi rispetto ad avere tutto fino a giugno. Però secondo me questa qui era la cosa dal punto di vista della comunicazione più giusta da fare, stabilire un accordo, visto che l'eliminazione era possibile, nei fatti era possibile, ma era un ragionamento che bisognava fare prima dello spareggio, sì, secondo sì, me. Sì, è chiaro. E presentarsi lì dicendo che rassegnava le dimissioni, poi non sono sinceramente tre mensilità o quattro mensilità che cambiano la cosa. Ma no? È chiaro. Però secondo però me bisognava andare come comunicazione così. Però questo, è chiaro anche che è giusto anche che ha quei soldi, ha diritto che quei soldi li pretenda, perché non è che tutta questa merda che gli piove addosso sia, debba essere per forza gratis, volendo, facendo quel mestiere lì e a prezzi di mercato. Beh, dicevo, Paolo Genovese, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Parliamo di The Place o della Lazio? Non lo so, no, dici, scusa, cosa faresti? Per lo sappiamo, lo sappiamo. Il maestro Genovese ci confermerà che The Place, in realtà, oltre ad essere un fortunatissimo film che sta andando bene, gli facciamo guardare in bocca al lupo, è ispirato allo Stadio Olimpico domani alle 18, perché è quello che vuoi, no? Domani sicuramente The Place è lo Stadio Olimpico, derby difficilissimo, sentitissimo, però posso dire una cosa, finalmente. Cioè, finalmente un derby d'alta classifica in cui le due squadre di Roma si giocano qualche cosa di più del solito, insomma, no? Io sono felice di questo. Allora, per parafrasare il tema del tuo film, cosa faresti per vincere derby? Poi lo chiediamo anche a Roncone, No, in questo di tutto, perché insomma questo derby è veramente importante, la vittoria al di là del derby non può sempre, ma i tre punti lancerebbero una delle due squadre decisamente verso chiaro. Cosa faresti per vincere? Non puoi chiedermi cosa farei. No, non lo so. Che fa? Che guarda, te devo chiedere? Parlerei bene di Lotito. Ecco, parleresti bene di Lotito. Questa è una promessa roba di Paolo Genovese. Ce la segniamo e rivendichiamo. Sì, ok. Allora, adesso ragazzi, aspettate tutti un istante. C'è il traffico e poi chiederò anche a Roncone cosa farebbe per vincere il derby. Parlerebbe bene di Lotito. O di Lotito. No, di Tavecchio. Traffico. Magari. Una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Dunque, mando un altro messaggio alla dottoressa Scaglioni, con tutto rispetto per le informazioni di chi viaggia, che sono fondamentali. Però, dicevamo prima di... Solo Cruciani può lamentarsi. Ma se io voglio sapere sulla 24, va bene, ok, ma stai tranquillo, ma lo faccio io il traffico. Però domani il traffico previsto sia a Roma che a Napoli. Ma bene, dai, sei il solito. De Luca mi ha detto di arrivare presto, perché l'ho letto anche sui giornali. Sei il solito. È chiusa la galleria. Il solito democristiano. Poi devo lamentarmi sempre io. Va bene, ok. Allora, abbiamo sentito che Paolo Genovese, pur di vincere il derby, che è in linea con noi, quindi ci sta ascoltando, ha ascoltato anche il traffico. Parlerebbe da laziale bene di Lotito, ma non vedo, continuo a capire perché dovrebbe parlarne, a non capire perché dovrebbe parlarne male, perché questo è uno dei misteri della mia fede. Cioè non capisco, perché guardandolo da fuori, Lazio eccellente squadra, Lotito presidente da ormai da molti anni, e mi pare che l'abbia presa non esattamente da capo classifica. Però Fabrizio Roncone, romanista, cosa faresti per vincere il derby? Parleresti anche tu come genovese bene di Lotito? No, guarda, io ci ho pensato durante adesso. Hai avuto un vantaggio. E ho realizzato in modo definitivo che la Lazio è strafavorita domani. Genovese. Io vi saluto. Grazie. Ma guardate, non fare lo scaramantico. Paolo. La Lazio è strafavorita domani? Ma non facciamo gli scaramantici, non c'è il derby, non c'è la favorita. Che favorita? Scusate, la favorita sulla carta vuol dire che sei svantaggiato, perché tu ti dà sempre. Diciamo una piccola cosa vera: che i due tecnici sono molto diversi. Di Francesco domani farà come sempre la sua partita, infischiandosene della Lazio. Inzaghi, come è noto, come dire, gioca sulle avversarie. Io credo che in un derby il fatto di giocare sulle avversarie, quindi anche sui limiti delle avversarie, possa essere un vantaggio. Questo Adesso parliamo davvero di calcio. Mamma mia, Fabrico, come sei? Come l'hai presa larga? Ha fatto di tutto per non dirci che cosa farebbe. Come l'ha presa larga, Fabrizio Roncone? No, un'ultima cosa. Io, a parte il fatto che Inzaghi lo vedrei bene, tanto per dire, come CT della nazionale, ma lo dico sottovoce, giusto per non far incazzare nessuno. Però, allora, visto che non facciamo gli scaramantici, io per salutare Paolo Genovese e Fabrizio Roncone chiedo un pronostico, visto che tra poco c'è la schedina di Capuanepardo. Paolo, cominci tu? Madonna, che fatica. Io vi so dire il risultato, però non vi so dire per chi. Finisce 2-1 domani. No, così democristiano non va bene. Allora facciamo così: lui ci ha dato il risultato e Paolo Genovese ci dà chi vince. No, io ho dato il risultato 2-1. Ah, scusa. No, vabbè, dimmi chi vince. Non mi fate fare una tortura, è una tortura. Io sono un vostro ammiratore, ma se sono portato 2-1 per me è 2 pari, 2-2, e qui è ragionevole che possa finire in un pareggio, perché tutte e due si giocano molto, due pari. Tutte e due giocano un bel calcio, la Roma un suo calcio, la Lazio un calcio dell'avversaria di turno, è ragionevole che possano esserci anche più di due gol, quindi io direi un pareggio può essere, poi insomma è chiaro che la Lazio è stata allora favorita, Paolo Genovese 2-1 non si sa per chi, Fabrizio Roncone 2-2 non si sa per chi, mi viene voglia di chiederti 2-2 per chi, ma vabbè, noi registriamo adesso. Allora io ringrazio Fabrizio Roncone e Paolo Genovese, visto che ci stiamo avvicinando al momento fatidico della... Sei pronto per Luigi? Pier? Sì, Pardo, ci sono. No, mi viene da chiedere 2-2 per chi, ma mi sono trattenuto. 2-2 per tutte le altre, perché sappiamo che nel campionato come questo i pareggi contano. Beh, negli scontri diretti un po' di più contano, però sì, insomma. No, comunque, allora, schedina, andiamo ragazzi, siamo pronti? Allora, su Roma-Lazio, per gli ascoltatori attenti della nostra trasmissione, abbiamo detto, ma ripetiamo. Per dato chi si fosse messo adesso, i diffusori, X Pardo, uno io. Ok, diffusori confermato? È una citazione. Confermato? Sì. Perché sì, si fosse vai. Messo all'ascolto solo in questo momento. Dai, che cavolo. Domani sera, Napoli-Milan. Uno. Domenica, Crotone-Genoa. Crotone-Genoa 1 X. Capuano Benevento-Sassuolo X. Luigi X. X. X. Ok. Sarebbe il primo punto del Benevento. Sì. Allora Pierluigi Sampdoria-Juventus 2. Una grandissima tentazione, ma metto 2 anch'io. Buh. Allora Capuano, PAL Fiorentina X 2 Pierluigi Torino Chievo 1 X Giovanni Udinese Cagliari. Ah, questa 1x2 si può mettere. No, dai, 1 su. 1 Non so se sto avanti di 2 o di 3. Quindi non so che cosa dobbiamo fare. Diciamo 1, va. Allora, Pier, Inter-Atalanta domenica sera. X 1. Benissimo. Allora, Giovanni. Madonna, qua siamo veramente tiratissimi. Anche quei tempi. Lunedì, Verona-Bologna. Ah, ma no! Verona-Bologna, sì, Verona-Bologna, X. Vabbè, metto X anch'io. Pensavo sopra di due. Lo sapevo. L'hai copiato. Sopra di due, gli volevo regalare Inter-Atalanta. L'hai copiato. Un rischio per l'hai, l'hai però, seguito. Però l'hai, punto, gli hai giocato. Verona-Bologna la porta a casa. Pardon, gli hai giocato addosso, dai. Su. No, in quest'ultima gli hai giocato addosso. Su. L'ha compensato. Io mi scuso con Marco da Siracusa che non riusciamo a parlare, purtroppo. Traffico via via. Vabbè, comunque. Grazie Giovanni, grazie intanto per Luigi Conte Pardo. Ha detto ritorno in nazionale, diamo tempo alla Federcalcio per le soluzioni. Ah, ciao a tutti. In quale anno non si sa, Claudio Schiattone il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, sentiamo domenica alle 17 con tutti i convocati weekend e poi lunedì alle 14. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!